In diretta da un letto con una testa di cavallo, va ora in onda Opencast Alpha. God bless the work and cycle on as fast as life before it's gone. My parents depart, a fortunate bastard, no means to publish my written works. I killed a man to own his savings, I met his spirit as I searched his house. Box was mine, I couldn't find it anyway. Quietly I strolled about the technical field till I met a man who smoked a pipe and said I must be killed. But sir, you have a wooden leg like mine. Sorry to have troubled you, call me anytime. I found a station, the shape so strange. Fat policeman asked me my name. My soul was one, I've forgotten mine. I came here to report a crime, and he arrested me and said I would be hung. I said, excuse me, but what I've done? He accused me of the thieving of a bicycle of a person, which was atomic, nobody would serve. Under the gallows, no reason why, balloon still rising beneath the sky. I see an army march up the road, save my neck, if not my soul. I took an elevator to the center of the world. Was shown things that cannot be and told things not to be heard. This could make me anything, but I would have to stay. Could come up with us, why this was I cannot say. At last I have returned my metal box. It is everything and nothing that can be won or can be lost. The guts and murder stayed inside your belly color. The road is black and by the night I walk towards a candlelight. No, volevi entrare, avevi tutta questa fretta, adesso entra pure. E ho capito, ormai il cavallo è morto. Il cavallo è morto, la musica di questa sera, signori, è stata scelta, no, e approvata. Dai, non dirlo, non è dirlo. È stata approvata, no, dall'uomo, no, qua a fianco a me, che... Non dirlo, non dirlo. Ha detto, bella questa, la mettiamo. Contro la nostra volontà. Sì. Allora, se la tua schedina SD non viene letta dal mio computer, cioè... Non è un problema mio. Tua, ovviamente. Certo. Ma è stato bello che prima ha detto questa è so bella, la mettiamo. Adesso era qua, dicevo, ma cos'è sta merda cosa qui? Devi deciderti. No, comunque c'è. Bello. Diciamo che è un insieme di stili questo qui. Fra il western, il mandolino pizzicato, c'è tutto, c'è. Sì, mancava, beh, l'organo. Ma era uno di quei brani. Uno di quelli strani, devo dire la verità. Si dice particolare. Com'è che si chiamavano questi qui? Questi erano i Crit Boom. Mi raccomando, se doveste vederli in giro, Crit, picchiateli. Boom, il brano era Evil Brother. Evil Brother. Signori, Open Cast Alpha. Puntata numero? Una puntata nuova. Una. Adesso devi star qua a fare il sottile. Ho capito. Siamo sotto i 40, ma sopra i 30, signori. Okay. Signori. Teniamo conto accuratamente della numerazione. Mi raccomando, tenetene conto anche voi quando ci presenterete il conto. Siamo, esatto, sopra i 32. Siamo sopra i 32, sì. Siamo sotto i 40, ma sopra i 33 anche, secondo me. Anche il 34, forse. Siamo tra il 37 e il 39, più o meno. Ecco. Mezzo. Che poi è interessante come discorso, perché ora che ci ascolteranno sapranno già che numero è anche noi, cioè... Non ne sono sicuro, no, che non lo sapremo. Metteremo un numero a caso. Esatto. Va bene. Puntata particolare. Beh, notizie. Come notizie? Grosse notizie. Mi hai detto, io stasera ho delle grosse notizie ma da dire. Non le dovevi portare te. Tu abbiamo già parlato del fatto che ti sei portato a casa il portatilino. Ancora? Arma, abbiamo già parlato. Per cui non hai più niente da raccontare. Come no? Ho aggiornato lo schermo. Ah già, è vero. Ho trovato una piccola guida grazie al buon vecchio Diego che ci ha detto che c'era questa possibilità. E subito sono andato a cercare sul www. Ho trovato un monitor. Alla fine il costo ci stava sui 40-50 euro. Spedito dall'Inghilterra, mi pare. E ho iniziato l'operazione a cuore aperto. Pensa cosa non si trova su internet. Pensa un po'. E però funziona cioè, bene. Hai smontato il portatilino, cioè, nuovo. Più o meno il giorno dopo che è arrivato. Lo schermo o il portatile? Tutti e due. Ok. Non capisco. Sono arrivati assieme. Ah, sono arrivati assieme. Eh sì, ho ordinato tutto. Preventivamente. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Comunque funziona bene. Vi do un consiglio. Non provate con la risoluzione HD sull'Efica perché tanto non lo regge, ok? Non ce la fa. Ne ho portate a casa due, uno che era quello consigliato, l'altro un pelino più. E vabbè, ho detto spingiamoci un po' di più. E non funziona. Non funziona. Però adesso sei quello consigliato. Ho in giro uno schermo di un Acer Icona Tab, se dovesse servire. Se dovesse servire, lasciateci un messaggio sul sito www.vgl-com.it che il nostro buon Tullio. Se avete l'Efica e volete provarci, la dovete smettere. Ci ho già provato io, non funziona. Vabbè, e Debian? Debian, ieri sera è partita anche la grafica. Funziona? Non è male. Non è male, no, perché te lo danno con Ubuntu, ma piuttosto, guarda, veramente non lo uso. Non ci crede nessuno. No, è vero, è odioso. Proprio odioso. Cioè, è proprio lento. Ha quei bei colorini sullo sfondo. Inizia, tra sud e ciò. Ma dai, ma è così un bel sistema Ubuntu. No, è bellissimo, è peccato che è un po' lento. Hanno fatto anche il sito nuovo. Sì, ma comunque non lo puoi neanche aggiornare, quindi non puoi neanche vedere il loro sito nuovo. Per dire. Per esempio. Aspetta, Dici di no. Non va sulla versione il non sito. Non sono convinto. Comunque ho dovuto anche usare i repository quelli vecchi. Quelli tarocchi. Ah, sì, perché non è più supportato da nulla. Da no? Niente. Esatto. È bello. Sì, però vabbè, la prima cosa che ho fatto è una di bella Ubuntu copia del disco. Di Ubuntu? Di Ubuntu, sì, sì, di Ubuntu, di Ubuntu. Con Debian funziona ancora benissimo. Sì, sì, sì, sì. Infatti Debian Unstable, cioè proprio... Ciula. Adesso Unstable. Quasi testing. Allora, mi è arrivata giusto in questo momento una velina in cui abbiamo una notizia... Dov'è? È quella nuda che sta correndo via. Ti ho visto a te. Vabbè. E per quello sei ignudata. Sì, certo. Scusa. Sicuramente. Abbiamo questa notizia bomba, per cui tenetevi liberi per il weekend del 4-5 maggio, perché pare, si dice che forse, sicuramente, ma sì, non è ancora deciso. Si dice pare, non è certo. Potrebbe... Che cosa? Che cosa? Le anonime ci riferiscono che... Che cosa? Che cosa? Siamo sicuri del fatto che forse... Quindi? Ok, potrebbe essere rilasciata... Chi? La nuova versione di Debian. Forse si dice. Se non esplodono palle di fuoco. Ma i Maya. Ma quella con LibreOffice. Sarà LibreOffice. Sì. C'è LibreOffice. C'è LibreOffice. Addirittura. C'è LibreOffice, sì. Cazzo, no, potrebbe anche finire il mondo il giorno dopo. O il giorno stesso. Esatto. Pensavano di uscire per il 2012. C'è stato qualche piccolo ritardo. Adesso anche in Maya. Capito. Si sono adeguati. Hanno detto aspettiamo. Adesso ho capito perché. È tutta colpa loro, quindi. Tutta colpa dei Maya. Quindi installatela la svelta. Ah no, di Debian. Sì, dopo te la spiego, eh. Non ho capito. Un disegnino. È merito di Debian se siamo ancora vivi. Siamo ancora qui. È colpa di Debian se non è successo niente. Sì, fondamentalmente è quello. Va bene. Mettiamo un pezzetto. Mettiamo un altro pezzo di quelli che ti sono piaciuti a te. Ma perché mi devi dare le colpe di tutto? Perché tu hai detto questo pezzo è bello, dura anche poco. Ho capito. Ho sentito ma io. Se io ti dico di buttarti a fiume. Possiamo anche fare senza musica per una sera, per esempio, se l'ha scelto lui. 30 minuti solo di parlato. No, dai, metti la musica. Mettiamo questo pezzo, sono in No Tolerance con Trippy. Un pezzo che a te è piaciuto tanto. Trippy. hai scelto? Non è che l'ho scelto io. È veramente brutto. Ma no, magari a qualcuno piace. A chi? A te? Tu hai detto no! Che non ti piace. Fammi sentire. Preferisci il Retrosonic? Aspetta, no, no, no. Aspetta. Aspetta. Senti. Senti. Ti piace? E metti il Retrosonic. Però crea un po' l'atmosfera. E questa... cioè, hai qualche notizia strana da dare? Questa è più l'atmosfera. Questa la potremmo lasciare per il bagno. Per il bagno, crea sì, quell'atmosfera lì. Va bene. Beh, questa sì. Effettivamente è meglio Retrosonic, eh? Te l'ho detto. Però hai detto tu quell'altra, bella bella, mettiamola. No, io non ti avevo detto Trippy. Poi vabbè, c'è solo una canzone che si chiama Trippy. Trippy, effettivamente. Comunque questi erano i Retrosonic con The Hipster Song. Bella. Tutti i pezzi vi ricordiamo che sono scaricabili da Jamendo. Troverete il link sulla nostra pagina, sul nostro sito, sul nostro sì, virtual server. Anche che... sul nostro internet. Anche se qualcuno non l'ha scaricata, ti insegno una cosa che però resta, guarda, resta proprio tra me e te. Se non parli nel microfono, non ti senti. Ma è qui il microfono? No, è per dire. È attaccato. Allora, se alcune canzoni che noi passiamo, soprassedere, proprio passate a quella dopo, ok? non proprio quella che noi vi diciamo, una successiva, una adiacente. Ma questa era bella. Sì, ok. A me piaceva. No, carina rispetto a Trippy. Ma era bella anche Trippy. Ma Trippy, diciamo che era caratteristica. No, vorrei far sentire qualcuna di quelle che abbiamo scartato allora piuttosto, scusa. Sì, vabbè, quelle erano veramente Trippy pietose. È adatta a un ambiente, che ne so, un ascensore. Io avrei detto un bagno. Perché concilia. Concilia di brutto. Va bene, altre news. Altra news, rimaniamo nel mondo Debian. Evviva! Ed è stato eletto il nuovo Debian Project Leader. Finalmente. Guarda, che ci i giornali continuavano a scrivere. Cioè, allora c'era il presidente del consiglio in Italia. Esatto. E il Debian Project Leader. Sì, sono le due. Erano due no, i giornali non hanno avuto molto da scrivere perché l'elezione è stata abbastanza contesa, perché c'erano tre candidati. Tutti abbastanza, senza grandi differenze. Ma tutti maschietti? Sì. Quindi niente quote rosa? Niente quote rosa. Che vergogna, guarda, una vergogna. Il DPL precedente è stato il DPL in carica per più tempo, con 3 anni, e ha superato di un paio di mesi il fondatore di Debian, Ian Murdoch, che era rimasto in carica per svariato tempo. 3 anni meno 3 mesi più o meno, dai, esatto. Può anche essere 3 anni generica, meno 3 mesi, sì. Esatto, è un numero romano, sì, certo. Okay. E quindi l'ultimo DPL è stato un record di longevità, e nessuno dei 3 nuovi candidati aveva intenzione di cambiare particolarmente l'indirizzo di Debian. Vincitore, vabbè, sarà sempre www.debian.org. Il vincitore è Lucas Nussbaum, qualcosa del genere. Okay. Che è un amico, lo salutiamo. Ciao Luca. Non sappiamo come pronunciare il suo cognome. Va bene, Luca, no? Luca. Per gli amici? Per gli amici. È francese. Luca. Vabbè, allora c'è Luca. Baguette. Scusa, Luca. Luca. Luca. Lucas. C'è la S? C'è la S. Allora sì, Lucas. Io comunque ho una proposta che esula un po' da questa cosa. Usiamo Gentoo. No, io propongo d'ora in poi di dire tipo il PDR. Perché? Presidente della Repubblica. DC. O il PDC. PDC? Presidente del Consiglio. Del Consiglio. Può essere. Potrebbe essere anche della Camera, però. Anche. Non va bene perché è ambiguo. Allora uno è ambiguo. Quindi diciamo è una via di mezzo. È ambiguo. È una quota arancione. Una quota gialla. Gialla. Allora sarà il PDK e il PDK. Il PDK. Il pupupu. Ci sarà il pupupu. A me piaceva. Poi sono veramente potrebbe starci. Mi sento un po' incompreso. No, è che hai dei gusti che sono quelle sigle che poi parti col PDK, finisci con l'FDP. Esatto. È un attimo. Vabbè. Bella questa notizia. Vogliamo parlare di cose serie? Ma in soldoni, a noi, voglio dire, qual è il programma politico che il nostro amico Lucas l'ho sentito portato? No, voglio sapere se lo sappiamo. Cioè, mi stai prendendo, stai dicendo che io dico cose senza averle lette, senza averle sentite. Io l'ho sentito. Abbiamo l'RVM, se lo vuoi far partire. Aspetta, vuoi sentire l'RVM? Ha detto così? No, non ha detto. Ha detto così. Più pilupi tutti. No. Beh, come, ma no? Intendeva di alzare le quote rosa. Alzare le quote rosa. Quindi tutti più pilati. Comunque, a proposito, intanto che andiamo a fare una ricerca su Debian di redazione, in cui riesco a leggere quello che ho scritto. Ecco, scritto giusto per informare chi ci ascolta. La redazione sta leggendo le notizie su un Pandora, che vi ricordo essere quel microcomputer. Pensavo fosse un dolce. No, quello è il Pandoro, è il marito. Ah, ecco. Okay. Con lo schermo da 4 pollici rotti. Cioè, praticamente è uno schermo tipo da cellulare, però con una tastiera attaccata. Un po' come un Nintendo. Una tastiera, controlli da gioco. Esatto. Ma il fulcro di questa cosa è che c'è uno schermo da 4 pollici. Per cui adesso, intanto che la redazione l'età avanza. Esatto. Lo schermo da 4 pollici e mezzo. E mezzo. E rotti. XFCE. E mi si è aperta. Che risoluzione c'ha? 800x480. Okay. Diciamo che mi si è aperta la finestra più piccola dello schermo mentre l'aprivo. Perfetto, per cui intanto che la redazione legge una lettera alla volta. Credo che questa sia una A. No, il programma era di puntare sull'innovazione e fare innovazione dentro Debian. Ma scusami, e non solo nelle derivative. C'è qualcosa che non torna. Ma io l'ho già sentito questo programma. No, no, non è questo. Cioè, no. Debian e innovazione. Infatti adesso esce la nuova versione. Ho capito, ad esempio, ma... Cioè, già il fatto che siamo passati a LibreOffice... Appunto. È un passo avanti. Io pensavo di vederlo fra una decina d'anni più o meno. Ad esempio Debian... più o meno supporta l'architettura ARM 64 bit ed è la prima. Che stiamo parlando di un processore che ancora non esiste. Esatto. Cioè, ha il supporto per un processore. Più avanti di così. Però. Gentoo lo supporta? No. No. E allora? Insomma. Non ho capito, ma quello lì viene pagato da Lucas. Pensavo fosse pagato da Lucas. Invece, a proposito delle quote rosa, volevamo segnalarvi il progetto di GNOME. È in corso GNOME Outreach Program for Women. Esatto, anche quest'anno. Anche quest'anno. In corso. E non vi iscrivete, maschietti, vi sgamano. Sì, perché è un progetto stile Google Summer of Code, però non ma centrato in costume. Solo... No, non è incentrato solo sullo scrivere codice. Non ho capito perché io non posso andare dopo a fare la giuria. A finire. E non è riservato a studenti, ma a donne. Praticamente, fondamentalmente si tratta di aiutare aspiranti contributrici. Avrei detto aspiranti tempo. Donne. Anche questo, quello te lo spiego sempre dopo a te. Poi che lo interessa. Picchiamo dopo. Esatto. Aspiranti contributrici al progetto GNOME, non solo al non progetto solo, GNOME, no. Perché ci sono svariati progetti che partecipano, tra cui KDE, GNOME, okay. KDE, Debian, Mozilla, Media Goblin e quindi, svariati altri. Esatto, per cui niente. Si propone, dice io vorrei fare questa cosa e gli si dà una mano a muovere i primi passi nella struttura, nella modifica di un... E a loro volta i progetti propongono attività di cui esatto. sentono il bisogno e... Così, un po' come appunto... So, un indicatore di bagni. No. No, allora, poi te lo spiego come funziona, dopo ti faccio un disegnino. Ha detto bisogni. Cioè, metti per esempio... Ha detto bisogni. Ma io non so perché gli apro il microfono, aspetta. Sto qua. Va bene. Io volevo dire una cosa. Parla nel tuo di microfono. Funziona. Io volevo dire una cosa su Google invece. Ah sì? Sì, perché sono uscite finalmente le specifiche dei nuovi Google Glasses. E poi tornano. E le hanno spedite. Sì. Hanno spedito cosa le specifiche? Hanno spedito, no, i Google Glasses. Ma non avevamo smesso che... di parlare di quella di realtà aumentata. No, ma no, non è realtà. No! Vi dico solo una cosa, ci sono delle bellissime FAQ sul sito che dopo metteremo, in cui la più bella è: posso usare i Google Glasses per mentre lavoro col mio martello pneumatico? E la risposta è no. Vabbè, siamo tornati a parlare di realtà aumentata. C'è solo no, vabbè, ma la cosa carina è che ci sono le api. C'è solo un commento. C'è la guida delle api per Java e Python. Per scrivere delle app per sti cosi qui. Comunque c'è solo un commento al fatto che siamo tornati a parlare di realtà aumentata. Allora ve la siete cercata, Direi che io cercavo l'altra, quella del pene e la vagina. Quello lo mettiamo dopo. Ok. Mettiamo un pezzo che sono mettiamo 20 minuti che parliamo. Questo brano che è stato scelto sempre da Puglio. Non darmi la colpa. È colpa tua. Poi mi vengono a cercare. Esatto, appunto per quello. Io, anzi, poi alla fine della puntata lasceremo anche l'indirizzo di casa di Davide. L'indirizzo IP di casa di Davide. Dove potrete venire a spaccare tutto. Come dire, a fare i complimenti per la scelta musicale. O a rubare gli zerbini. Esatto, il brano scelto, il terzo brano di stasera. Quarto terzo. Si intitola diciamo. Born Again dei This Public Life. There's no one to tell me stop. Or your brain is going to rot. You're not alone. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Your biggest fan, but you're ruining all. troublemaker wants me to know, wants me to know, wants me to know what you've done. But your photos are boring and they're just trees without stories. But I'd like to see you kick a Sharon ball. Stanno urlando, credo che... Vabbè, cose che capitano. Passiamo all'angolo della classifica, ma dai, dai, visto che Distro l'uomo... Watch. No. Come no? L'uomo Distro Watch non è più tra noi. Non dire così, sì, non è bello. Sembra brutto, eh. Esatto. Diciamo esatto. Diciamo che non è presente, secondo me no. Però diciamo quindi... che è presente nei nostri cuori, ma non fisicamente. Esatto. Nel suo soprattutto di cuore. Vi ricordo che mi ha portato un regalo. Abbiamo deciso di cambiare classifica per una volta e fare la classifica delle aziende che hanno contribuito, i cui sviluppatori pagati hanno contribuito allo sviluppo del kernel Linux 3.9. Scusa un attimo, vorrei farti la sigla, permetti? Vai. Ok. La classifica delle aziende i cui dipendenti pagati hanno contribuito allo sviluppo del kernel Linux. Prego. Ma quelli che erano in pausa caffè non valgono, no, allora? No, solo quelli pagati. No, se lavorano in pausa caffè non contano, non contano come azienda. Come perché calcolano l'orario della del pausa caffè. E vedono, esatto. Vai. Comunque al decimo posto c'è Samsung con 334 commit, il 2,9%. Poi smetto. Vabbè. Al nono posto IBM. Ah, pensavo più in alto sinceramente. Sì, perché il nome è corto. Esatto, sì. Come esatto? Al nono posto Texas Instrument. Texas Instrument. Al settimo posto Linaro. Che è un consorzio, di... che comprende svariati. Tutto ciò che gira attorno a Linux. Al mondo ARM. Abbastanza attivo. Al sesto posto Google. Vabbè. Al quinto posto Novell. Novell? Pazzesco. Fa quasi paura. Vai, vai. Sei infatti. Al quarto posto Sconosciuto. Sconosciuto? Sconosciuto? Azienda nuova. Nuova. Con... è una SAS. Certo. Una raccomandita semplice sarà. SAS cos'è? Società in raccomandita Società semplice. Aziendale sconosciuta. Raccomandita tra... Sconosciuta. Sconosciuta. Ok, vai. E comunque è al 7,3% dei commit. Lascia fare. Al terzo posto c'è Red Hat, che sta perdendo posizioni in classifica. Perde colpi, ma attenzione perché al secondo posto... Al secondo posto c'è Nessuno. Nessuno. Che però, e scusa, anche, cosa vuol dire? Nessuna azienda. Sono gli sviluppatori che contribuiscono al kernel in modo... E attenzione, al primo posto della classifica delle aziende i cui dipendenti pagati contribuiscono allo sviluppo del kernel Linux... C'è Intel con il 10,2% e 1185 commit. E come cavolo fai ad arrivarci? Cioè, la differenza fra il secondo e il primo, quant'è che è, scusa? Il secondo è 1180. Vabbè, dai. Ma sta perdendo posizione anche il lo sconosciuti? Nessuno? Nessuno, sì. Maledizione. D'altronde diventa sempre, diciamo, forse difficile entrare a far parte del... Beh, e soprattutto chi sa sviluppare il kernel ha molte probabilità di trovare un lavoro. In una delle aziende che i cui dipendenti pagano. Okay. No, io avrei detto un'altra cosa. Visto che principalmente il kernel che cos'è? È quello che sta fra i tuoi programmini e l'hardware. E chi è che sa più di questo se non chi produce l'hardware? Sì, beh, ok. E sti par di ciufoli. Sì. Intel, sì, ok. AMD, dov'è? AMD non c'è mai. Ma non è in Linaro, forse? No, non penso. No. Beh, Linaro si occupa comunque solo del lato ARM. E non sono dentro loro, no? No. Va bene. Allora, niente, comunque questa era la classifica, appunto. Hai visto? Vogliamo classifica. Anche parlare del 20° posto, cioè Arista Networks. Arista Networks, che è questo che appunto fanno costine. Arista, sì, infatti. Okay. Che adesso non avendo, è kosher. No. Non avendo una connessione internet affidabile al momento, non possiamo andare a controllare quindi chi sono. Quindi possiamo dire che ci dobbiamo fidare di quello che sta dicendo? Un po' sì. La nostra quota rosa. Esatto. Maledizione. T'ho detto che, conoscendoti, non che saresti andato a controllare, perché non saresti andato. Però sai, intanto che conoscendolo foto... avrebbe trovato notizie più sbagliate lui di quelle che ho portato. Esattamente. Io non avrei cercato notizie. Quello vedo è il che problema. Comunque hai mantenuto alto il nome. Abbiamo raggiunto i 30 e passa minuti di registrazione di questa puntata numero... Una puntata che varia, un numero che varia tra il 37 e il 39. Ecco. Ma poi saremo più precisi in seguito. Noi direi nella che a questo puntata. Punto... Esatto, nella prossima puntata vi diremo che puntata era questa, forse. Ma non qui il numero della puntata dopo. Mi sembra ovvio, esatto. Che possiamo sapere tutto. È il trucco, bisogna mantenere un po' di suspense, uno scopre nella puntata successiva. Esatto, bravo. Nella puntata precedente? E la puntata precedente che numero era? Circa. Quella prima di questa. Più o meno. Ma vi diciamo tutto. Ma non ne siamo sicuri. Esatto. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo ancora una volta che sul sito www.gl-como.it, quando è online, trovate tutte le puntate di Opencast. È online, è inutile che fai lo spiritoso. C'è stato un piccolo down oggi. Dove potete lasciare, se volete, anche dei commenti, degli insulti. E adesso... Tra l'altro troverete soldi. Delle nuove guide, delle nuove paginette. Abbiamo un interessantissimo articolo su un videogioco scritto sull'Arduino. La Chiapperino, mi pare che si chiami. Sì, una roba del genere, un tiro a segno. A Chiapperino. Sì. Giusto? Sì. È come l'accendino. Come l'accendino, però con la chiappa. Esatto. Avete fatto un accendino con l'Arduino? Con l'Arduino. Sì. E su questo direi che vi salutiamo, abbiamo raggiunto proprio il fondo del baratro, più di così non possiamo andare, possiamo solo cominciare a scavare. Scaviamo. E quindi comincia pure a scavare che... Ci vediamo la settimana prossima, saluti. Ciao bella. Saluti. Ciao. Saluti. Buonasera. Buonanotte. Vi lasciamo con un pezzo jazz. Questo è bello. Questo è bello, questo lo è bello. Io. Mettete voi mettete voi le parole, perché... Esatto, un pezzo diciamo No, non dirglielo. Mettete voi le parole e basta. Va bene, diciamo solo questo. Loop Town, loro sono gli Slick Team. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Ciao, sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Inferno. La Divina Commedia di Dante Alighieri, libro primo, capitolo 6, canti 26, 27, 28, 29 e 30. Godi, Fiorenza! Ciao, sono Rocco Semifreddi. Anche io ascolto Opencast Alpha. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle.